Il 26 ottobre 2009 il governo dà via libera al disegno di legge Gelmini, ennesima controriforma dell'università pubblica a costo zero. Infatti il 3 novembre un centinaio di studenti dell'Onda hanno immediatamente occupato per qualche minuto l'ingresso del Ministero dell'Istruzione al grido «La Gelmini non ci merita!». La nostra ministra dell'Istruzione ha dichiarato in una nota: «È il solito gruppuscolo di sinistra che è stato sepolto dalla storia e che usa ancora slogan isurati presi in prestito dagli anni 70. La stragrande maggioranza degli studenti vuole la modernità ed è stufo di loro». Buonasera da Anna e Adamolo, benvenuti. Benvenuti. Scusate se la nostra voce è un po' impastata, ma per venire a condurre questo programma abbiamo dovuto disseppellirci dalla storia e qualcosa c'è ancora, un po' di terra è ancora rimasta in bocca. Allora, noi ci riaggiorniamo dopo venerdì, che è stata la scorsa puntata, dove abbiamo presentato il nostro programma, abbiamo presentato insomma quali sono state le attività dell'Onda dell'ultimo anno. Sì, sì, e come avete ben capito, nell'ultima settimana è successo davvero tanto. Infatti il governo ha appena approvato il disegno legge della Gelmini e adesso basta solo che venga approvato anche alle Camere. Sì, speriamo che ci metta anche un po', però comunque basta quello. Tra l'altro è da segnalare che questo è un decreto fantasma, perché la Gelmini aveva annunciato questo governo lo scorso autunno, aveva detto che doveva seguire immediatamente la legge 133, quella sui famosi tagli al finanziamento. Poi, evidentemente perché c'era stata un po' di protesta, aveva deciso di posticipare e da 6 mesi questo disegno di legge era stato presentato, ma in rete non si riusciva a trovare il documento e lo spettro aleggiava per il web e nessuno è riuscito a leggerlo. Allora, analizziamo un po' quello di cui parla questo disegno di legge. Allora, intanto notiamo subito che il Senato accademico perde valore a vantaggio del Consiglio di Amministrazione, il CDA, il quale però verrà composto per una grande fetta del 40% da privati. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso, cioè, la nostra università pubblica è eterodiretta, ovvero i privati avranno una grande importanza del fulcro decisionale e a svantaggio chiaramente invece degli interni, per cui adesso chi veramente si occuperà dell'università non saranno più chi è all'interno dell'università stessa, ma dei privati, che volgeranno quindi anche a loro vantaggio le varie decisioni sulle ricerche ed altro. Eh sì, in sostanza il Consiglio di Amministrazione è l'organo che decide cosa finanziare e come. Quindi la ricerca di base potrebbe andare direttamente a vantaggio dai privati, ma l'aggravante è che quando si parla di ricerca di base, quindi di ricerca svincolata da un'immediata ricaduta di profitto nel mercato, il privato è incompetente, perché abbiamo a che fare di argomenti talmente specifici che neanche gli ordinari, tanti ordinari della stessa facoltà, hanno conoscenze tanto approfondite da poter giudicare a riguardo la ricerca di base condotta da un loro collega. Quindi figuriamoci quali competenze specifiche possa avere un privato, anche se, vabbè, nel decreto c'è scritto che metteranno dei privati di grande competenza. E l'esempio, per esempio, prendiamo un'università di giurisprudenza in cui ci sono persone, cioè docenti che magari conducono delle ricerche confrontando codici di varie nazioni oppure cercando una modifica del codice per migliorare un determinato aspetto, e nel consiglio di amministrazione, magari anche nello stesso CCL della facoltà, potranno sedere degli avvocati che l'unica cosa che fanno è che trattare, che so, infortunistica stradale o legati a una specie di studio di avvocati che tratta solo diritto commerciale. Come possono questi avvocati capire qualcosa di ricerca? In più il CDA, il Consiglio di Amministrazione, prevede che ci sia un unico rappresentante degli studenti, il che è assurdo. Intanto sappiamo tutti quanto è inefficiente di per sé il rappresentante, quanto comunque è difficile. È inefficace. In più un solo rappresentante degli studenti, insomma, ognuno si rende conto di quanto sia assurdo. Il CDA è composto da 11 membri, uno solo è rappresentante della ricchezza vera dell'università, gli studenti. Sì, e zero rappresentanti dei precari, tra l'altro, a parte questo. Però quest'idea che ci possa essere un solo rappresentante, quindi un pensiero unico dei rappresentanti degli studenti all'interno del CDA, mi fa anche un po' rabbrividire. Insomma, il pensiero di avere, che so, San Tommaso B come unico rappresentante rimango un po' così. Per fortuna lui ha molto da fare in questo periodo. Infatti sappiamo che ci sono vari interessi, no? Quindi è possibile che ne avvenga anche un conflitto. No, no, no, i suoi interessi non sono in conflitto, non credo che siano in conflitto. Ma comunque dai, torniamo a parlare della legge, sennò... Va bene, allora, tornando a parlare della legge, in definitiva quindi c'è un'entrata dei privati nella gestione dell'università. Ma diciamo il senso finale e ultimo di questo disegno sta nel comma 6 dell'articolo 15. Dall'attuazione della disposizione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quindi costo zero. E quindi in quest'ottica vanno lette ad esempio tutte le altre piccole norme, cioè piccole o grandi norme introdotte. Ad esempio vengono introdotti i prestiti d'onore al posto di alcune borse di studio e si introduce il ricercatore a tempo determinato al posto del ricercatore a tempo indeterminato. Sì, allora parliamo un attimo di questi prestiti d'onore. Quindi allora si affiancano alle borse di studio questi prestiti d'onore che sarebbero quasi un indebitamento individuale dello studente per sostenere la sua formazione, quindi il costo dello studio, e un credito. E è come se poi in qualche maniera dovesse poi vantare lo studente nei confronti dello Stato, che poi dovrà riscattare in qualche maniera una volta lavoratore. Sì, sì, una volta formato. Non è un assegno dato allo studente che può formarsi o può intraprendere un'attività. No, è proprio tu ti paghi da solo, cioè noi ti anticipiamo i soldi che ti avremmo dovuto dare per pagarti. E poi tu ce li restituisci una volta che ti sei formato pienamente. Quindi chiaramente una parola classista a questo punto ci starebbe bene. Comunque parliamo poi dicevo anche dell'introduzione del ricercatore a tempo determinato. Dunque, già il decreto legge Moratti del 2005 aveva sancito che dal 2013 sarebbe scomparsa la figura del ricercatore a tempo indeterminato, che rappresenta la terza fascia di docenza. Quindi professore ordinario, professore associato, ricercatore a tempo indeterminato. Questo disegno, a partire dalla sua entrata in vigore, praticamente introdurrà la figura del ricercatore a tempo determinato, che potrà avere un contratto di 3 anni, rinnovabili massimo una volta, quindi sarebbe 3 più 3. Quindi rimarranno 2 sole fasce di docenza, quindi professori ordinari, professori associati, e... queste fasce di scienza saranno chiaramente importanti e potranno concentrare ancora maggiormente in sé il potere, perché tant'è vero che i concorsi da associato, i concorsi da ricercatore verranno gestiti solamente dagli ordinari. Questo per la trasparenza sempre. E diciamo, il risparmio per lo Stato è chiaro. Un ricercatore oggi, quando lo assumi, lo devi pagare finché non va in pensione. Anche se non salta di grado, cioè se non diventa né associato né ordinario, minimo sono 30 anni che lo devi pagare, che lo assumi a 35-38 anni. Un ricercatore a tempo determinato invece massimo lo devi pagare 6 anni. E quindi tutti coloro che alla nuova università o alla nuova università aziendalizzata parteciperanno attraverso il consiglio di amministrazione o attraverso dei finanziamenti esterni hanno anche un altro enorme vantaggio nell'introduzione del ricercatore a tempo determinato, perché hanno un maggiore e enorme potere di controllo su questo precario, che in sostanza rimane precario, che può stare massimo 6 anni. Al termine dei 6 anni, che cosa succede? I servigi offerti dal ricercatore a tempo determinato potranno essere valutati e in sostanza, se questo ricercatore a tempo determinato avrà tipo dai 25 ai 36 anni, vuol dire che in quei 6 anni di ricercatore a tempo determinato ha prodotto il massimo perché faccio un esempio a matematica, non ci sono matematici che dopo i 40, cioè c'è solo un matematico che dopo i 40 anni ha scoperto davvero qualcosa di fondamentale. La maggior parte dei matematici a 35 anni sono finiti. Io ce l'ho 34. Vabbè. Però non sono un matematico. Quindi in sostanza il ricercatore. Quindi questa università aziendalizzata sfrutta il lavoro intellettuale dei ricercatori in questi 6 anni, che sono i 6 anni fondamentali, 6 anni di vera formazione, di vero intuito, diciamo. Quando finiscono questi 6 anni, chiaramente, se non ci saranno fondi o non ci sono accordi col baronato locale, con i poteri locali, chiaramente questo ricercatore rischia di trovarsi con niente in mano. Ed è quindi una cosa ancora più aberrante rispetto al precariato attuale. Insomma. E quindi allora è chiaro che questa è una riforma a costo zero, che prevede il, cioè si vende l'università pubblica ai privati e l'università pubblica quindi si appropria del lavoro intellettuale, degli studenti, dei ricercatori, quindi tutti precari, i quali se non hanno, diciamo, dei collegamenti, delle conoscenze ai vertici, sono in qualche maniera possono essere buttati fuori da un momento all'altro. Eh sì, a questo proposito vorremmo rivolgere una domanda al ministro Gelmini. La domanda è questa: nonostante la sua retorica dell'anno scorso si basi principalmente sul tema della lotta al baronato e alle concentrazioni di potere all'interno del meccanismo universitari, quest'anno abbiamo un'università che è praticamente invivibile per studenti e studentesse, precari e precarie, con tasse altissime, servizi scadenti, strutture disastrose, e i rettori, che hanno semplicemente scaricato i tagli sugli studenti e sui precari, sono invece sempre al loro posto. Allora, come si coniuga la realtà di oggi con le sue parole dette nel 2008 e ripetute quest'anno più volte? Come dire? Io qui direi una frase di un grande condottiero di una volta, se me lo permettete, grande la confusione sotto il cielo, non so se vi ricordate. Ringraziamo il nostro Anna Damolo che nella terza parte intervisteremo. E adesso un vals da Mille Temps. Una canzone di Jacques Brel, per spaccare un po'. Beh, ora che abbiamo riacquistato un po' di brio, parliamo di ciò che è successo a Perugia nell'ultima settimana. Allora sì, l'abbiamo anche già ripetuto la scorsa volta, ma noi ripetiamo ancora quanto i tagli sono stati veramente trasmessi sugli studenti, in quanto le tasse sono aumentate fino a 398 euro nella fascia media, appena dopo le fasce non coperte dalle borse ADISU. E infatti diciamo che quest'ultima settimana ci sono stati due importanti presidi, uno il 27 organizzato dall'UDU e uno il 28 per la CDA organizzata dall'ONDA. Sì, il 27 al Senato Accademico e il 28 al CDA, Consiglio d'Amministrazione. Dunque io parlo del 27 ottobre, praticamente l'UDU ha organizzato questo presidio per portare le firme raccolte nell'ultimo mese al Senato Accademico. L'ONDA Perugia era presente, però nella delegazione che è andata a consegnare queste firme i ragazzi dell'UDU non hanno voluto far partecipare i ragazzi dell'ONDA, dicendo è una manifestazione dell'UDU. Il mandato della delegazione era quello di trattare il possibile abbassamento delle tasse, cioè il possibile abbassamento della seconda e della terza rata delle tasse di quest'anno. Del resto, come ha spiegato appunto uno dei delegati prima di recarsi dentro al Senato Accademico, l'Università di Perugia ora ha qualche soldo in più perché ha riacquistato la virtù e quindi sa già quanti iscritti ci sono per le varie facoltà e quindi potrebbe, quante persone in ciascuna fascia, quindi potrebbe ridistribuire, spalmare meglio tutto quanto. Cioè, è un discorso che fa da tutte le parti, fa un po' aborrire questo qua, perché seguendo la stessa logica vuol dire che se l'anno prossimo o qualche anno, se i tagli dell'anno prossimo all'Università di Perugia e l'amico rettore saranno legittimati ad aumentare nuovamente le tasse, cioè loro saranno legittimati ad aumentare nuovamente le tasse se questo è l'unico modo per far andare avanti l'università, cioè praticamente loro l'hanno legittimato a dire se i soldi non li potete trovare in altro modo, vabbè, aumentateci pure le tasse. Comunque, a parte questa cosa, dopo un'ora la delegazione è uscita festante, gioiosa, alza bandiere, così là. Che cosa hanno ottenuto? Hanno ottenuto che a dicembre si possa la commissione delle tasse si riunirà a dicembre per ridiscutere l'importo della seconda e della terza rata. Ok, se l'aumento delle tasse verrà ridotto siamo tutti contenti, però innanzitutto la commissione sulle tasse ha un potere consultivo. Seconda cosa, qua parliamo sempre di deleghe, ma andiamo sempre delegazioni, delegati, qualcuno che nomina delegati e dall'altro. E poi già si è visto che il sistema delle deleghe non produce risultati. I rappresentanti di tutti i sindacati studenteschi presenti alla seduta del Senato Accademico che ha deciso l'aumento delle tasse non hanno avvertito gli studenti finché questo aumento delle tasse non è stato ratificato un mese e mezzo dopo dal Consiglio d'amministrazione di luglio. Quindi comunque non c'è trasparenza nel rapporto rappresentanza studente. E per noi di Onda Perugia l'unica possibilità è quello di mettere pressione agli organi decisionali partendo dal basso. È pronto in quest'ottica? In quest'ottica infatti è successo così, che allora intanto parlare di tasse è riduttivo nella situazione dell'università, perché è anche molto importante la mancanza di trasparenza e l'impossibilità di avvicinarsi a quelli che sono i bilanci dell'Ateneo. Cioè, voi immaginate come una fortezza inespugnabile che trattiene cose a noi dovute, cioè il rettorato. In qualche maniera, infatti, il 28 c'è stata, insomma, ci siamo accorte, abbiamo capito che per avvicinarsi ai bilanci dell'Ateneo si necessita di una richiesta d'accesso che poi il rettore valuta. Ma valuta cosa? Valuta se c'è un effettivo interesse, ma insomma, cioè, i documenti dovrebbero essere pubblici e pubblici non sono, in quanto l'essere studente dovrebbe bastare, in quanto è lui che contribuisce all'entrata e al prestigio dell'università, ad avere, insomma, cioè è questa, già questa è una garanzia di interesse nell'avvicinarsi ai bilanci, no? Evidentemente tutti sono uguali, ma qualcuno è più uguale degli altri. Ma visto che andiamo di metafore, io dedicherei questa canzone alle mie radici e alle mie ali. Direi che è proprio bella questa canzone, mi ha fatto proprio commuovere. Dai, presentati, anche tu sei Anna Damolo, no? Sì, esattamente, sono Anna Damolo, intanto buonasera a tutti, frequento il primo anno di Scienze Politiche e ne vengo da un istituto tecnico industriale, proprio qui a Perugia, e ovviamente tipo grifo. E dici, che cosa fai lunedì 9 novembre in Aula 3 a Scienze Politiche? Lunedì 9 novembre sarò proprio impegnato, mi hanno messo un bellissimo test, diciamo. Un test? Ma non è un'università ad accesso libero? Anch'io credevo così, infatti. Infatti quando mi sono iscritto sapevo che era proprio un'università con accesso libero. Però abbiamo avuto una bella sorpresa noi del primo anno. Cioè, in pratica, diciamo che chi non ha superato la maturità con un voto superiore al 70 verrà penalizzato, perché dovrà fare un test che questo test c'è il rischio, diciamo, che gli andrà a bloccare gli esami del secondo semestre. E poi un'altra cosa ancora più bella di questo test, diciamo, che è stato fatto proprio a novembre, anche con la motivazione che loro ti vanno a valutare se tu hai le capacità, e ti vanno a dire proprio che se tu non hai le capacità non puoi dare gli esami del secondo semestre, quindi devi partecipare a un tutoraggio. Però è brutto che questo tutoraggio loro te lo mettono nel momento in cui a gennaio hai i primi esoneri, diciamo, e quindi ti trovi bloccato. Quindi diciamo intanto che questa università non fa partire da zero tutti quanti, perché chiunque, un accesso libero prevede che tu con una carta di maturità in mano puoi presentarti all'università. Ti iscrivi, perché tu sei iscritto, giusto Anna Damolo? Certo, sono proprio iscritto. Hai pagato già anche tutte le tasse. E il bello è stato proprio quello, che ho pagato tutte le tasse e non so se potrò fare gli esami del secondo semestre. È stata quella la bella doccia fredda. Ma senti un po', chi è che ha deciso quindi di inserire questo test? Il test è stato deciso, diciamo, dal consiglio di facoltà. E qui però non sappiamo, il bello è stato fatto anche dai nostri rappresentanti di facoltà, perché loro non ci hanno detto niente. Noi siamo stati avvertiti, diciamo, a fine agosto di questo test, però a fine agosto non si sapeva né il test, cioè quale sarebbe stata la forma di questo test, né quali sarebbero state tanto bene poi le conseguenze di questo test, perché non ne sapeva niente. E proprio adesso, anche se uno va a parlare con la segreteria degli studenti, si può dire che ne sanno poco anche loro. Sembra quasi quindi che ci vogliano, perché anche io sono un'Anna Damolo di Scienze Politiche primo anno prossimo al test, ci vogliono trattenere il più possibile all'interno di questa università, vogliono spolparci per bene. Infatti secondo me proprio questo è il giochino, ci vogliono proprio spolpare definitivamente i nostri, tutti noi. Sì, e poi l'altra cosa interessante, dici Anna Damolo, quali sono le materie di cosa tratterà questo test? Ti faranno domande di diritto, mi hai detto, no? Il discorso è proprio anche questo. Diciamo che su questo test andrà valutato su tre materie: cultura generale, domande su cultura generale, diritto e storia. Però io proprio di qui mi vado a domandare una cosa, cioè se io sono, prendendo proprio un esempio come il mio, da un istituto tecnico industriale, che mettiamo anche diritto, non è stato trattato così approfonditamente, mi trovo anche limitato, perché proprio il bello deve essere proprio quello che io vado su una facoltà per imparare cose nuove, e tu mi vai a limitare se io non so queste cose, non posso entrare sulla facoltà, e quindi sono, non credono quindi che un operaio limitato possa diventare dottore, quindi. Esattamente, è proprio questo il fatto, diciamo. E niente, proprio questo discorso di essere assimilato a sistema, diciamo, proprio da quando hai 13-14 anni, dove devi essere, già devi sapere qual è il progetto della tua vita futura. Cioè, se uno ha un destino non lo può cambiare nel corso dei propri studi. Sì, e nella stessa ottica si muove anche il decreto di legge Aprea, che è stato presentato appunto dall'ignota senatrice Aprea, che riguarda la scuola e che purtroppo probabilmente verrà approvato nel corso di quest'anno scolastico, e introdurrà la definitiva separazione tra licei e istituti, e i professionali verranno addirittura declassati a scuole regionali. Insomma, praticamente si ritorna al vecchio avviamento, che per fortuna negli anni 60 era stato abolito. Cioè, invece di andare avanti, qua torniamo indietro, e purtroppo qua nessuno dice niente. E poi vabbè, comunque, questa ora per concludere con una battuta, insomma, se ti spolpano, caro Andrea, sei bello in carne, diciamo. Insomma, a me purtroppo mi hanno abituato a mangiare bambini, capito? E quindi è normale che sono in carne, diciamo. E vabbè, qua quest'oggi abbiamo avuto tutte persone che sono state sepolte dalla storia, che sono volute venire a partecipare alla cosa. Vabbè, ok, comunque ringraziamo il nostro Anna Damolo, che abbiamo chiamato col nome giusto, mi dispiace, vabbè. Non c'è problema. Qua, io ringrazio proprio voi di questa possibilità di aver fatto sentire anche la mia voce. Grazie all'onda. Chiaramente in bocca al lupo per il test, vi daremo i risultati, cioè no, i risultati quando li avrà, chissà, è bello che proprio 10 inizia il primo esame. Ok, allora vabbè, chiudiamo un attimo con i prossimi appuntamenti. Il 20 novembre a Roma è stata indetta dai ragazzi dell'Onda della Sapienza la riunione dei precari della ricerca, dei precari della scuola e degli studenti. Noi di Onda Perugia saremo presenti, speriamo di andare anche abbastanza numerosi. In preparazione di questa mobilitazione per Roma, il 12 novembre ci sarà un'assemblea in qualche facoltà che ora decideremo qui a Perugia. E poi una delle prossime mattine sicuramente andremo a richiedere questi beneamati bilanci che non ci vogliono dare. Sì, perché la tipa ti dovrebbe telefonare, ma sicuramente non ti telefonerà. Ci fanno attendere.